Thank you. we had created so far. Sensazioni, le emozioni, la tristezza, il pianto, il sentire il dolore altrui, cosa che agli alieni non appartiene. Gli alieni che ci hanno visitato sono organismi, creature che non ragionano e adottano esclusivamente il ragionamento asettico, freddo, per fare tutto quello che fanno. Quindi se ci hanno ibridato era per un motivo particolare, un esperimento o semplicemente un modo per usufruire dei beni della Terra senza entrare in prima persona sul pianeta. In realtà ce ne sono diversi di alieni su questo pianeta. Il loro aspetto potrebbe essere quello simile a quello umano, ma con caratteristiche diverse, tipo un cranio un po' più allungato, dei travestimenti che potrebbero adottare, anche perché hanno una tecnologia decisamente diversa dalla nostra. Quindi se noi vediamo una persona, in realtà l'immagine che noi riceviamo da questa persona è quella che loro vogliono farci vedere. In realtà noi vedremo l'alieno in quanto è, cioè una forma più esile della nostra, magari più alta, con un cranio molto più grande, occhi molto più grandi, che contiene un cervello che ha una capacità di calcolo decisamente superiore alla nostra. Ma ora arriviamo al punto: il virus e gli alieni, quale connessione potrebbero avere queste due cose? Dunque, se in realtà gli alieni sono realmente al comando della nostra società, loro hanno sottomesso, attraverso la promessa di beni materiali, l'ho messo nei posti di comando queste persone umane 100% che hanno venduto la nostra libertà per avere dei benefici materiali, medici, eccetera, eccetera, per stare bene. Anche perché molti si chiederebbero: ma come mai rinunciare? Perché la superiorità aliena anche in ambito militare avrebbe fatto sì che comunque saremmo stati succubi di questi alieni. Quindi tutto sommato la scelta è stata del calcolo delle probabilità di avere una tragedia vera e propria sul nostro pianeta. Non sono stati neanche sbagliati. In realtà potrebbero gli alieni essere i nostri genitori, nel senso quelli che ci hanno creato. Di conseguenza difficile sarebbe stata la ribellione, anche se sarebbe giusto dal punto di vista morale che tutti ne fossimo informati. Ma questo molto probabilmente non avverrà mai, o se avverrà è perché l'evidenza farà sì che non si possa più nascondere quale sia la verità. Comunque, nel progetto alieno c'è un pianeta nel quale le persone devono essere a un certo numero. Superato quel numero si mette in pericolo l'equilibrio del nostro pianeta, come è avvenuto in questo momento. Il numero stabilito dagli alieni è stato scritto su delle colonne. Uno di questi 10 comandamenti è il fatto che il numero massimo degli umani sulla Terra deve essere di 500 milioni di persone, perché si mantenga l'equilibrio. In questa Terra siamo più o meno 7 miliardi, dunque mancano all'appello 6 miliardi e 500 milioni di persone. Questo numero in sovrappiù deve essere man mano ridotto. Un virus come questo potrebbe essere il modo per ridurre la popolazione sulla Terra. Questa potrebbe essere una connessione che garantirebbe un maggiore equilibrio sul nostro pianeta. Secondo luogo, l'inquinamento, il procedimento dei ghiacciai. Tutto questo va a mettere nuovamente in pericolo l'equilibrio terrestre. Se la Terra si squilibra eccessivamente potrebbe causare la distruzione del nostro pianeta stesso. Quindi il pianeta diventerebbe arido e non ci sarebbe più possibilità per noi di sopravvivere. Molti potenti hanno già un progetto per andare su Marte e anche hanno messo da parte i semi per ricostruire il cibo su un altro pianeta, e tutte le tecnologie possibili, come ad esempio le tecnologie per avere ossigeno su un altro pianeta e tutte le strutture che servono, come delle serre ad esempio per far crescere gli ortaggi, le verdure, il grano, eccetera, eccetera. Quindi il progetto è già pronto. Solo poche persone, nel caso la Terra dovesse morire, solo tra i più ricchi, quelli che ricoprono ruoli fondamentali nel nostro mondo e sono veramente al comando, anche se sotto gli alieni, loro avranno la garanzia di poter sopravvivere, mentre il restante di noi assolutamente no. Questo è bene che si sappia. Questo video sarebbe l'inizio di tutto questo e un tentativo di ridurre la popolazione evitando di distruggere l'eternità e evitando che gli equilibri del nostro pianeta non siano più in linea con una strategia giusta per conservare il pianeta. Giusta secondo ovviamente il punto di vista strettamente di calcolo, freddo calcolo che gli alieni hanno sempre adottato. Però sul nostro pianeta gli alieni che comandano sono quelli più freddi e calcolatori. Esistono altri alieni che sono in lotta con gli alieni che ci hanno sotto controllo e tentano in ogni modo di informarsi su quello che realmente succede di nascosto dai nostri occhi. E lo fanno in dei modi più disparati, attraverso delle apparizioni che queste persone hanno avuto, attraverso dei rapimenti, tra molte virgolette, dove si studia l'uomo, ma soprattutto si studia le condizioni di salute dell'uomo, e da lì si capisce anche in che stato è il nostro pianeta. La guerra è in atto tra gli alieni, tra quelli per noi buoni, tra quelli per noi cattivi, che in realtà sono i cattivi che detengono il potere, perché loro fanno solo freddi calcoli. In realtà potrebbero aver stabilito che la Terra sia un progetto concluso, e quindi proseguendo con l'inquinamento, evitando di far progredire tecnologie pulite, come ad esempio l'idrogeno, i motori ad idrogeno, hanno invece preferito il nucleare, le cui scorie radioattive sono deleterie per il nostro pianeta, hanno preferito ancora gli idrocarburi e tutte una serie di energie deleterie per il pianeta, che hanno fatto sì che la Terra non è più, se riesce più a difendersi dai raggi solari. Il Sole tra l'altro ha aumentato la sua attività e questo, oltre all'inquinamento, influisce sull'aumento della temperatura del nostro pianeta. Se il nostro pianeta non si raffredderà, nel giro di 20-25 anni siamo destinati a morire. Lo vediamo anche dal fatto che gli inverni sono sempre più corti, il caldo è sempre maggiore, i ghiacciai si stanno sciogliendo, orsi bianchi da soli su un pezzo di ghiaccio in mezzo all'oceano. C'è qualcosa che non quadra. Qualcosa non quadra, ce ne siamo accorti tutti. La piccola Greta lo ha gridato al mondo, ma al di là dei sorrisi, degli elogi, nessuno ha preso ancora provvedimenti al potere. E questo ve la dovrebbe dire lunga. Questo vuol dire che gli alieni che ci stanno comandando hanno deciso che noi siamo sacrificabili. Questo virus potrebbe essere uno, l'inizio di un tentativo di ridurre il nostro numero, di dare più anni al nostro pianeta, ma soprattutto perché le risorse stanno diminuendo, il pianeta è sempre più povero di risorse e questo calare il nostro numero potrebbe annullare la nostra vita, perché poi si potrebbero dividere nel modo migliore le nostre risorse. Ma quando un continente intero come l'Africa sta morendo, ci dovremmo fare delle domande. Ma in realtà non è solo più l'Africa che sta morendo, ma siamo tutti noi. A questo punto la connessione ci dice che è iniziato una guerra in cui noi siamo i sacrificabili. Cioè siamo quelli che dovremmo combattere tutti i giorni per sopravvivere, mentre ai vertici del potere ci sono alieni e uomini corrotti e venduti che hanno già una via di fuga per il pianeta rosso. Questa è la situazione, mi è sembrato giusto condividere queste conoscenze ed è giusto che ognuno tiri le sue conclusioni, se continuare la nostra vita di sempre o renderci conto che è arrivato il momento di pretendere da chi ci governa di saperne di più. Questo è un punto fondamentale che dobbiamo sottolineare.

Ho ricevuto infatti finalmente delle buone notizie. Per spiegarvi tutto però è necessario fare un passo indietro. Qualche mese fa ho avuto una signora che afferma di avere dei contatti con gli alieni. Addirittura suo padre sarebbe ammiraglio di una flotta intergalattica e lei stessa aiuto pilota interstellare. Beh, nel corso del tempo con questa signora mi sono scambiato qualche messaggio. Siamo diventati amici, per così dire. Fino al punto che a gennaio mi ha fatto arrivare addirittura un messaggio direttamente dall'astronave. Mi hanno scritto: pace oltre tutte le frontiere del cosmo. Questo sarà un anno di svelamento e verità. Orribile per certuni, meraviglioso per i preparati. Firmato Comando Michael dall'astronave Arcadia. Io capirei felicissimo, ragazzi miei. Non capita mica tutti i giorni che ricevo un messaggio direttamente dall'Arcadia. E proprio perché ero così emozionato, non ho afferrato l'avvertimento che in realtà stavano cercando di darmi. E quindi è finita lì. Poi, come sapete, verso febbraio è successo quello che è successo e adesso ci ritroviamo chiusi in casa per colpa del coronavirus. Io poi però ci ho ripensato a sta cosa, mi sono ricordato di quello che lei mi aveva scritto e soprattutto del fatto che lei me lo aveva scritto il 10 gennaio, quando noi ancora sapevamo poco e niente del coronavirus. Invece lei, a quanto pare, già sapeva che questo sarebbe stato un anno orribile. Già sapeva, io dico, questa sa qualcosa secondo me. Fammi un po' chiedere se sa qualcosa e soprattutto se la flotta di Michele interverrà. Perché se interviene la flotta di Michele, ragazzi miei, stiamo veramente dentro una botte di ferro, eh. Questa è stata la sua risposta. Il mese scorso la mia flotta stellare mi disse che eravamo in allerta planetaria, ma senza poter codificare subito, quindi loro già lo sapevano, capito? Io ci avrei scoperto, ero sicuro che già sapevano tutto quelli della flotta. Il problema, se la senti qua per spiegare proprio chi è che ha creato il coronavirus, il problema era l'elite sionista che sta al potere per mezzo della stirpe dragoniana, capito ragazzi? Sono stati tutto quanti i dragoniani che, per chi non lo sapesse, sarebbero questi. Avete capito che bestie che stanno a combattere? Questi dragoniani quindi hanno creato il coronavirus per decimare la popolazione mondiale, utilizzando Iran e Italia per i test, capito perché siamo tutti quanti questi casi noi in Italia? Qui però arriva finalmente la buona notizia. Dice, il virus mortale, cioè il coronavirus originale, è stato depotenziato dai capi della confederazione che sono intervenuti e lo hanno trasformato in qualcosa che può provocare al massimo una polmonite, cioè quello che abbiamo adesso, che è comunque pericolosissimo, però non è così pericoloso come l'avevano creato i draconiani, capito? Quelli della Kabbala, cioè i cattivi, sanno che il pianeta è ormai in ascensione dimensionale e sono moribondi in quanto non sopportano più la vibrazione alta. Quelle vibrazioni alte ne sopportano, sta cosa la sapevo già. A quel punto, noi della Federazione, avevamo due opportunità. O staccavamo la luce elettrica in tutto il piano, oppure fermavamo tutto quanto nel mondo, come aerei, treni, eccetera. Infatti poi è quello che hanno fatto, no? Pure in Italia se stiamo fermi è perché Conte evidentemente si è sentito con quelli della Federazione Galattica, con Michele, no? Inoltre il problema era di tenere ognuno al posto karmico scelto in caso di attacco galattico da parte delle fazioni negative che hanno fatto inciuci con i governi satanici. Ovviamente quelli governi satanici hanno fatto inciuci con sti pezzi del merda dei dragoniani. Guarda, non mi fate parlare che ce l'ho a morto io con i dragoniani. Quelli della Cabala si nutrivano di sangue, sti pezzi del merda, e per dominare la popolazione usavano la tecnologia aliena e l'ipnosi. Capito che cazzo è impicci che fanno questi della Cabala? Il problema è che in Italia a breve ci saranno delle rivolte. Questo non aspettavo, però dice che addirittura ci sarà una guerra tra i terrestri e gli extraterrestri della quarta dimensione. Raga, dalla quarta dimensione quelli sono veramente i peggio, quelli della quarta dimensione. Qua sono cazzi amati, eh. Ed è proprio qui che però finalmente subentra la polizia spaziale del grande giurì dei 12, capito? Perché potremmo star sicuri. Gesù, perché giustamente questa pure Gesù in mezzo, non è che quello sta che ha mano in mano. Gesù è uno dei grandi del sistema che insieme alla flotta di Michele entrerà in gioco quando le cose si metteranno male, capito? Se uniscono Gesù e Michele, vi venisce a dare mano. Insieme alle nostre flotte pleiadiane ci saranno anche quelle andromediane. Ma raga, capirei, stiamo veramente dentro una botte di ferro. Ed altri popoli evolutissimi provenienti dalla sesta dimensione. Dalla sesta dimensione. Ma capire, allora quelli della quarta gli fanno il culo a strisce. Poracci, quelli della quarta ci credevano che arrivavano. Noi siamo quelli della sesta, sai che gli combinano. Quelli li vedono proprio, poracci, quelli della quarta. Non ti nascondo che la liberazione sarà drammatica, specie per i religiosi che ci vedono a noi come invasori. Dice a noi perché pure lei è aliena, no? Quindi i religiosi vedranno a loro come degli invasori, no? Senza sapere che in realtà la Matrix Arcontica era già qui. Poracci, i religiosi non stanno mai in casa. Come pensa che la Matrix Arcontica era già qui? Queste sono cose che si sanno, eh. Quelli non stanno mai niente, sono dei cazzo dello zaino. Queste sono cose che si sanno, ragazzi. Comunque, vabbè, avete capito, no? In pratica i draconiani, sti pezzi di merda, hanno creato il coronavirus. Poi però per fortuna è intervenuta la flotta di Michele che lo ha depotenziato. Quindi voi lo vedete così adesso il coronavirus, però senza l'intervento di Michele era ancora peggio, ragazzi miei. Quindi a questo punto l'ho ringraziata e gli ho detto, vabbè, meno male quindi che sta intervenendo la flotta di Michele, no? E lei ha aggiunto, il divino che governa le flotte è già qua, capito? Il divino già sta qua per mezzo di Michele, tutto si sta svolgendo, no? Infatti, ovviamente. Certo, molto dipende da come Cina, Russia e America risponderanno all'atterraggio, a questo atterraggio alieno. Sicuramente Trump romperà il cazzo, però no, ma sai che gli frega mica il comando di Trump? Quello fa come gli pare, giustamente mica il comando. Trump non conta il cazzo a livello galattico, Una cosa che ci tengo a precisare è che quelli della Kabbalah tenteranno, attraverso gli ologrammi, di proiettare enormi navi sulla città. Dice però non c'è cascate perché in realtà le nostre navicelle sono al plasma e si vedranno come fuochi roteare, capito? No, come quelle loro che sono semplicemente ologrammi. Pure anche i dragoniani quando si fanno proprio pena, va. Il tempo è ora. I divini sono esseri multidimensionali, di luce pura, però per questa ascensione del sistema solare assumeranno una forma semiterrestre. Poi ha aggiunto, può capitare che, questo è importante, può capitare che in questi giorni sentirai dei suoni alle orecchie e vibrazioni strane nel corpo, però niente paura, è semplicemente il corpo che si adatta alle nuove frequenze quantiche. Quindi capito, se sentite ste ronzine, orecchie, un po' di vibrazioni, state tranquilli che non c'è da preoccuparsi. Io però a sto punto, ragazzi, non potevo non chiedergli che sta a fare in tutto ciò Metatron. Metatron veramente, ragazzi, noi c'è i controcoglioni, altro che burioni. Si interviene Metatron, non ce n'è per nessuno, ci salveremo veramente in 448, Quindi io gli ho detto, ma in mezzo a tutto sto casino, quindi che sta a fare Metatron? E lei mi ha risposto, Metatron, come Michael, Uriel e hanno navi grandi due volte e mezzo la Terra. Metatron in particolare si occupa dei mondi esterni, quello c'ha un sacco dei cazzi da fare Metatron, io lo sapevo, per l'appunto lui è il creatore degli spazi siderali ed è un eterno, cioè uno che non conosce la morte in quanto cambia involucro a piacimento, ovviamente sarebbe immortale. Inoltre lui sarebbe l'eccellente scienziato che scoprì il super elettrone, capito? Nel contesto di Liberazione Terra lavora a stretto contatto con Michael e le altre due super flotte. Michael, dal canto suo, si occupa del nostro universo locale e ci protegge dagli intrusi viaggiatori galattici guerra fondai. Cioè Michael si mette lì e controlla che non entra nessun ragazzo, capito? Sotto di loro, a loro volta, hanno al loro servizio la addirittura ci stanno pure 70 fratellanze. Ma ragazzi, cioè, ma veramente, ma da che stiamo a parlare? Ci tra quegli amici credevano, c'erano pure 70 fratellanze che possiedono dei vascelli più piccoli, tra cui la famosa Gerusalemme, capito? La nave per salvataggio dei pianeti in difficoltà. Gerusalemme pure a noi troppe volte ci ha salvato, veramente, altro che ONG, a Gerusalemme è una nave spettacolare, ragazzi miei. Quindi vabbè, come avete capito, sta intervenendo pure Metatron, ragazzi miei, stava dentro una botte di ferro, quelli i dragoniani ci credevano, invece interviene Metatron io. Per coronavirus, che ci fa colazione la mattina con il coronavirus, Metatron, veramente, ragazzi, state tranquilli che si risolverà tutto. E adesso, ragazzi miei, concludo con una notizia meravigliosa, c'ho ancora la pelle d'oca, ragazzi miei, veramente non potete immaginare che cosa è successo, è stato così. Praticamente, poco dopo, che ci crediate o meno, ho ricevuto un altro messaggio dall'ammiraglio Michele, che diceva: benvenuto a casa, per le tue origini, cittadino, io ormai sono cittadino galattico, mica come voi poracci, voi pensavate che io non contavo niente, invece io bazzico con Metatron, con Michele, con Mercedes, che è bazzico ormai, raga. Poi poracci a fare la quarantena sulla Tiburtina, io invece a fare la quarantena nello spazio, con tutta questa gente a comandare, con le navicelle, con la fratellanza, col gran giurì dei 12, poracci voi invece, mannaggia. E poi lei infatti, quindi, avendo capito che io sono uno che comanda ormai, che faccio parte pure della flotta, parleranno delle mie gesta fino alla sesta dimensione, ma che ne sapete voi. Poi dice, guarda che non dimenticare che noi tutti, o almeno una buona parte di noi, siamo figli della luce, e questo vale anche per te, capito? Pure io soffio dalla luce, raga, mica come voi che cazzo siete. Tu sei già al servizio dei signori della luce, già sono stato assunto, ho il contratto a tempo determinato, tempo da arrivare sull'Arcadia e parto, ragazzi miei. Quando tutto questo caos sarà finito, saprai molte cose. Poi l'ammiraglio Michael ha aggiunto, sarà sentito che questo è un messaggio per tutta la popolazione mondiale, ormai il cammino è tracciato, ama te stesso e rispetta il tuo prossimo. Grande, veramente Michele, sei proprio un grande Michele, sempre detto che sei un grande. E poi le ha concluso, un abbraccio galattico, che la forza sia con te, pace oltre tutte le frontiere del cosmo. grande, gli voglio troppo bene a sta signora, perché mi trasmette proprio positività, sicurezza. Poi mi ha rassicurato pure sul fatto che il coronavirus, cioè sta, era tutto, capito, i draconiani, insomma, è intervenuto Michel, poi c'è, ma poi veramente c'è, sta pure in mezzo Metatron, poracci draconiani, non ci posso pensare che ci avevano creduto i draconiani che facevano, che cioè decimavano la popolazione, quando è arrivato Metatron, i poracci. Va bene ragazzi miei, dall'astronave Arcadia è tutto. Pace oltre tutte le frontiere del cosmo.